Allora, Giovanni, si parte per questa grande avventura, no? Sette mosse per l'Italia, si parte dall'Italia proprio verso, oltreoceano, attraverso l'oceano, verso l'America. Beh, parlaci un po' di questo progetto e di come nasce. Beh, è un progetto che nasce insieme a Italy, a Farinetti, che è un po' una bandiera, no? Per l'Italia all'estero, perché ovviamente porta all'estero le eccellenze alimentari in un modo molto bello, molto efficace e che ha molto successo. E quindi ci siamo incontrati, è nata l'idea di fare questo viaggio simbolico che in qualche modo unisce appunto Genova con New York. Perché anche unisce tante cose, perché appunto è un viaggio in cui comunque si porteranno in America la cultura, il cibo italiano, ma facendo questo viaggio, questo gruppo di persone scriveranno sette punti per l'Italia, che sono sette idee per migliorare le cose nel nostro paese. Poi vedremo cosa ne Certo, viene fuori. intanto cominciamo a scriverle. No, poi la speranza è che ci siano tanti italiani che partecipino appunto tramite il blog, il sito www.settemosse.it, che diano appunto il loro contributo in modo che si riesca a tirar fuori sette idee che abbiano un senso.